qualcosa per salvare la razza umana. Sì, sì, non c'è dubbio. Siamo tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate, sì, di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con questa storia dei matrimoni, dell'adozione, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punto e basta. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Cosa mi ha colpito di quello che ho letto, di quello che ho visto in questo weekend? Allora, c'è uno della Jihad, no? Uno di questi pazzi dell'ISI, come diavolo si chiama, questi islamici, sì, del califfato, sì. I tuoi amici del califfo. Amici un corno. Vabbè, i tuoi amici del califfo, guarda che si sente male, guarda che si sente male. Allora, i tuoi amici del califfo, uno catturato in Kurdistan, è stato intervistato da Repubblica. Senti che cosa dice. È vero che prima delle battaglie assumete allucinogeni? A molti di noi basta fumare un po' di erba. Cioè, questi qua che tagliano le teste, cioè sono tutti che sono noi, quelli del califfo, sono tutti fumati di marijuana, di erba, eccetera. Beh, perché il Corano non gli impedisce di non devono bere il vino, ma evidentemente possono fumare le canne. Poi a un certo punto uno di Repubblica gli chiede se è vero che stuprano le donne, no? Questo dice, senti come risponde. Può darsi, ma per combattere molti di noi sono costretti a vivere lontani da casa e dalle loro mogli per mesi. E comunque a queste donne noi offriamo l'opportunità di convertirsi e diventare brave musulmane. Ragazzi, altro che, ma questi qua bisogna sterminarli tutti, finire Piazza Pulita, tutti, anche, non me ne frega niente, sono stati finanziati dagli americani, come dicono alcuni, sono stati creati non so da chi, non mi interessa, bisogna sterminarli. Cose di casa nostra, i ministri del governo Renzi vanno al primo giorno di scuola, ti giuro non ho mai visto scene così ridicole in vita mia, cioè è peggio, che io credo che Mussolini non l'abbia mai fatto, ovviamente non sto paragonando Renzi a Mussolini, ma tu dimmi cosa c'entra il primo giorno di scuola e i ministri nelle scuole, ma perché? Cioè perché un ministro si deve recare, deve andare a rompere le scatole ai ragazzi che vanno al primo giorno di scuola? Perché ho visto la Madia, la Boschi, andare al primo giorno di scuola? C'è una roba di propaganda clamorosa, ma nemmeno il fascismo lo faceva. Boschi, senti poi la Boschi che dice a un certo punto, da questi ragazzi ci deve venire un'indicazione su cosa vogliono studiare, ma di cosa parliamo? Sì, ovviamente sono bambini molto piccoli delle elementari, però anche loro possono dirci per esempio quale materia vorrebbero studiare a scuola che oggi non studiano. Poi c'era anche Lupi, il ministro Lupi, che dice che da bambino diceva che voleva fare il presidente della Repubblica, della serie, com'è che dice D'Agostino, agenzia Masticazzi, cioè, ma chi se ne frega di quello che voleva fare Lupi da giovane, da ragazzino, alle elementari? Mi ricordo una mia zia che quando andavo da piccolino, perché l'estate la facevo in Abruzzo dai miei genitori, dai miei nonni, eccetera, io mi chiedevo che cosa vuoi fare da grande, ma adesso poi vi voglio chiedere a voi che cosa volete fare da grande, io rispondevo il Presidente della Repubblica. E si mettevano tutti a ridere. Ma ti pare normale che i ministri vanno al primo giorno di scuola all'elementare? No. Ma è una cosa ridicola, dai, no, su. Ma tu da bambino mattino cosa volevi fare invece? Ma non lo so, ma non lo sapevo, non mi esprimevo. Ma non lo so, ma non mi interessa la ridicolaggine che questo qua Ma sì, questo è chiaramente ridicolo, ma tu da bambino meno male. Che ma volevi fare? Ma è ovvio, dai, no, è una stupidaggine. Da bambino che volevi fare te? Ma nulla. Io volevo fare pannella da piccolo. Pensate come sei messo, volevi fare pannella. Sì, da bambino mi dice cosa vuoi fare? Tu pannella, perché lo vedevo in televisione, volevo fare pannella io da piccolo. Non capisci un cazzo. Esatto. Paola Taverna dei 5 stelle, ti giuro, questo è vero. Sul proprio sito Facebook, sulla sua pagina Facebook, scrive a proposito di Verdini. Lo ha incontrato alla camera e gli ha stretto la mano. E poi ha detto: ho stretto la mano a Verdini e mi sento uno schifo. Ti giuro, così ha detto. Potete farci scegliere almeno chi deve decidere della nostra vita politica. Almeno questo. Volete mantenere il Senato? Ma cavolo, fatecelo eleggere. No, ve lo dovete eleggere da soli. Io non vi sopporto più, vi giuro, un anno e mezzo comincio veramente a avere un fastidio fisico di voi. No, guarda. Siete fastidiosi perché non potete essere in buona fede, perché vi conosco e so che siete preparati. Questa era la Taverna in uno dei suoi show alla camera. Ho stretto la mano a Verdini e mi sento uno schifo. Per educazione l'ho fatto, ma nei vostri confronti mi sento uno schifo. Scusatemi. Molti le hanno risposto: controlla se hai ancora l'orologio, lavati la mano e conta le dita, disinfettati. Ancora poche ore. Mi raccomando, contiamo su di voi. Cuffiedoro.it, votare la Zanzara e il sottoscritto. La battaglia sembra persa, però chi se ne frega. Votate ancora. Sembra persa per il conduttore. Prete, come è messo il prete? Il prete è messo bene, ha mobilitato anche i catechisti, ha mobilitato anche lo IOR, ha mobilitato chiunque, ma è una grande prova di mobilitazione del prete, che ci piglia per il culo, ma chi se ne frega. Il prete Don Livio Fanzaga, venga a Trieste sabato, non si sottragga, venga a confrontarsi a Trieste sulle follie che dice sul resto. I primi tre non ce l'ho mai ammesso, poi nel quarto anno ce l'hanno ammesso, mal gliene incorse, abbiamo distrutto la gara per manifesta superiorità. Cioè, asfaltare dire poco, altro che asfaltati, distrutti, sono scomparsi. A Bologna, caro Parenzo, a Bologna. Chapeau al prete, dai. A Bologna c'è una grande guerra, tu le guerre non le capisci, papà, tu non capisci proprio una mazza, te lo devo chapeau. Dire. Tu le guerre non le capisci. Lo chapeau lo devi fare dopo! Cretino, non lo capisci, sei un cretino, non le capisci queste cose. Ma come te lo devo dire? Ma non le capisci quando uno è in guerra, poi fai chapeau dopo. Ma è possibile che le cose più semplici non le capisci? No. Le cose più banali non le capisci. Dici banalità, ma le cose essenziali non le dici. Vabbè, d'accordo. Che vuoi fare? Vabbè, ma tu non ti senti in battaglia, a te che ti frega, è tutta una cosa esterna a te. Ma no, è tutto interno. Allora, a Bologna che succede? Dopo lo devi dire. Che succede a Bologna? A Bologna succede che le coppie gay si registrano, grazie al sindaco, nei registri comunali, quelli ufficiali, come coppie. Il prefetto si oppone. È con noi Mario Adinolfi, voglio la mamma. Grande successo, comunque, devo dire, nelle piazze. Ciao Mario. Ciao, buonasera. Eccoci qui. Ovviamente tu sei dalla parte del prefetto, è diventato il tuo nuovo idolo. Il prefetto è il nostro giudice a Berlino, insomma, ha detto quello che è. Non fate carnevalate, insomma, questo. No, perché carnevalate? Perché? Dai, perché Mario. Un atto che non è nulla non si fa. Tu da sindaco faresti registrare un atto che non esiste? Io sì, perché sono a favore del matrimonio gay, dunque ogni mezzo è buono. Ogni mezzo è buono. Battaglia per avere una legge per il matrimonio gay. Questo è vero. Questo è vero. La legge, la carnevalata è una carnevalata. Il prefetto ha semplicemente detto non fate carnevalate. È un atto nullo, è una cosa che non esiste. No, scusa, Parenzo, il prefetto è quello, il prefetto è il rappresentante dello Stato sul territorio, forse vi manca questo. Cioè, perché tu definisci carnevalata questa roba qui delle coppie gay che si sono sposate all'estero e si registrano a Bologna? Perché è come un coriandolo, è come lanciare coriandoli, cioè se tu quel pezzo di carta lo fai a coriandoli, ha lo stesso identico valore. Lo ammette lo stesso Verola, cioè lo stesso sindaco di Bologna, dice sì, è un atto che non ha nessun effetto legale. Allora che lo fai fare? No, lo fanno apposta per fare ideologia. Certo, per forzare la mano sulla legge. Ma lo fa un sindaco, lo fa un partito, lo fa un esponente politico. Ma il sindaco fa politica, politica. No, lui fa un atto amministrativo che non esiste, non puoi fare un atto amministrativo e aprire un registro che non esiste, ha implicazioni economiche, c'è già un ricorso pendente alla Corte dei Conti, è roba che non esiste, una cosa che non esiste, non la fai. Fai la battaglia politica affinché la cosa che tu vuoi che esista. Vabbè, ma non quello possiamo anche essere d'accordo, però lì la definizione carnevalata, questa è una carnevalata. Ma però tu dici carnevalata perché in realtà tu pensi che lo stesso matrimonio all'estero fatto da due sia una buffonata, certo, diciamo la verità. Un'altra cosa, però insomma, il tema fondamentale, quanti si sono iscritti a sto registro, Giuseppe? Pare 3-4 oggi. Vabbè, 3 perché sono spesi, sono. Ma di che stiamo parlando? No, tu lo dici perché si sono sposati all'estero. Una tre. Carnevalata con tre coppie, ragazzi, insomma, davvero, questa è una roba di club, non è una roba di popolo, è una roba di club. Cioè, un tu club dici che ci fa carriera, dei tre sai che fanno, uno fa il senatore, ok, l'altro non lo so, adesso non mi ricordo gli altri due che fa, ma gli altri sono gente comune, ci fanno la carriera sopra, capito? Cioè, tu dici che lo giudice, il senatore del PD, ha fatto carriera solo perché è gay, diciamo. Il presidente arcigay, non è che non penso abbia altri metodi, faceva l'insegnante non so dove. Tra l'altro oggi c'è una foto che vorrei da te una definizione, un'impressione su questa foto, su tutti i siti eccetera, cioè lo giudice col suo compagno, con questo bambino che ha ottenuto tra virgolette in Canada tramite la surroga, come si dice, no? Allora, ottenuto tra virgolette è acquistato, cioè, vabbè, d'accordo, acquistato. Ha pagato questa donna per ospitare bambino, il seme del suo fidanzato, sì, è così. Non il suo, quello del fidanzato. Vabbè, ma tu trovi che questa cosa qua sia un orrore, uno scandalo? Io trovo la che cosa sia la più brutta del mondo. Io penso che mettere i soldi in mezzo alla questione della nascita di una persona sia una cosa orrenda. Ma guarda che si paga anche per andare nelle cliniche, si paga anche per andare nelle cliniche, quelle che costano 20.000 euro a parto, è uguale. Come hanno fatto loro in Nord America, costa una valanga di quattrini. Cioè, sto bambino in mezzo a sti due, come lo vedi te, sto bambino in mezzo a sti due? Ovviamente vorrei che avesse una mamma, ha scritto un libro, si chiama Voglio la mamma, tu capisci che... Beh, invece ha due padri, crescerà male? Crescerà male? Credo che un bambino a cui negano la mamma subisce una grande violenza. Se lo fanno perché, fra l'altro, ci mettono in mezzo dei quattrini per scacciare la mamma dalla questione genetica, della genesi, fanno una cosa molto pesante nei confronti del bambino e nei confronti del ruolo della mamma. Se a te piace, come ti ho già detto più volte, a me non piace questa cosa, non mi piace proprio. No, ma che non è ti piace, che non puoi esistere perché non c'è. Ma c'è, invece c'è, reale, esiste, capito? Succede, no, dunque esiste, si regola. Se tu la consenti con la legge, e che fai? Non è consentito. Cioè, secondo L'Italia te questo figlio dovrebbe essere strappato allo giudice, tolto allo giudice, diciamo la verità. Io credo che quel figlio è registrato come figlio del compagno dello giudice e così deve essere. No, d'accordo, ma secondo te va tolto alla coppia, però deve andare fino in fondo. Cioè, tu pensi che sia un male per questo bambino crescere insieme a due uomini, dovresti arrivare alla conclusione, Mario, di dire: io questo bambino lo voglio togliere a questi due. Io credo, non lo voglio togliere a questi due perché uno è il padre naturale ed è il padre legittimo. Vabbè, ma il padre vive con un uomo, è frocio e vive con un uomo il padre. Vabbè, ma quello non è mio, io mica pensi che un problema con i froci, tu hai questo problema. No, io di omofobo, mi fa farsi assolutamente no, io però non me ne frega niente quello che fa il padre con me. Io voglio che quella mamma che ha partorito quel bambino sia la mamma, perché se tu togli un bambino al seno della madre, ma quella non vuole essere mamma, una violenza tremenda, capito? E adesso che si fa? Può vivere con i due, oppure adesso può vivere con chi te pare, ma ovviamente può vivere con due, con quattro, con otto, con 16. Se tu rompi questa cosa qui, per cui la mamma può essere cancellata, dopo con chi vive mi sembra una cosa veramente di dettaglio. Fammi capire, se in quella casa ci sono sei persone, sono sei papà. No, perché qui è passata la questione. Perché devono essere sei persone? Sono due, sono una coppia, sono due. Perché sei? Sono due. Ma perché devono essere due? Ma se fossero quattro? Vabbè, ma che vuol dire? Non è che è consentito il matrimonio all'unione di quattro persone. Ma perché non può esserlo? Ma ci sono anche coppie eterosessuali che vivono in situazioni con 4-5 persone intorno. Get your motor running. Head out on the highway. attention in whatever comes our way. Vorrei farvi presente la signora Boldrini. La signora Boldrini che cosa si è inventata? Credo fosse quando era sabato, no? Sabato. E innanzitutto si è... il presidente della Camera, stiamo parlando, si è un po' risentita perché nella foto dei leader della sinistra, quella con la camicia bianca di Renzi, non c'era una donna. Non c'era una donna, sentite. Erano infatti 5 con la camicia bianca. Mi dispiace dover constatare che non c'era una donna con la camicia bianca. E anche questo penso che sia un dato che noi dobbiamo un po', insomma, non ignorare, no? No, veramente nessuno se n'era accorto che non c'era una donna, eh? Cioè non ce ne frega assolutamente nulla che non ci sia una donna lì. Cioè non perché non vogliamo le donne candidate, semplicemente perché non ce ne frega niente, perché evidentemente quei partiti, se hanno votato quei leader, significa che quei leader hanno il consenso, non è che le donne... Ma vorrei dire una cosa, signora, all'amico di noi. Aspetta, aspetta, adesso torno su di te, un attimo. Sempre la Boldrini, che poi nel presentare il prefetto, non so di dove, di in quale diavolo di paese era, dice la signora prefetta, che è una cosa orribile. La signora, perché uno deve dire la signora prefetta? Il prefetto, tutte le donne prefetto vogliono essere chiamate prefetto, non la signora prefetta, che è una roba orribile a sentirsi, cioè uno se lo sente, dice ma di che stiamo parlando? Di che cos'è la prefetta? Che cos'è? Un film di quei porno soft degli anni 70, cioè Lino Banfi, Lino Banfi non c'entra niente, no, lo scolaro va con la prefetta, che ne so, Edwige Perec, di che parliamo? Appena arrivati all'aeroporto, la signora prefetta ci ha informato che c'era stato uno sbarco al porto di Palermo. Cioè, capito, Adinolfi, la signora prefetta, e i film... Che palle, proprio il film di Edwige Fenech, hai ragione. Tra l'altro la Boldrini somiglia un po' a Edwige Fenech, ovviamente a G, insomma, per cui... Beh, tre esagere. Dai, è veramente una cosa, la prefetta, ma di che stiamo... Palle la Boldrini, diciamolo francamente. Che palle la Boldrini, neanche... diciamolo, che palle la Boldrini, diciamolo in maniera proprio franca. Che non puoi neanche portare in uno spot un piatto di maccheroni a tavola, se la donna lo porta è sfruttamento sulla mamma, dai, va. Lasciaci stare, è veramente su. Parenzo, che vuoi dire ad Adinolfi? Che vuoi dire su questo? Su Bologna. Ha perfettamente ragione. Sul resto, invece, siccome non viviamo nella teocrazia di Adinolfi né in uno stato islamico, non è la teocrazia di Adinolfi. Ma questo non è una cosa, è un prefetto che ha fatto, non il vescovo. Scusami, ma non c'è il califfo Adinolfi. Per fortuna viviamo in un paese in cui se uno vuole fare il califfo Adinolfi, questa è bella, però questa è buona. Sei come il califfo, però cattolico. No, però, califo, ma quale califo buono, ovviamente, califo virtuale ad Adinolfi. Non decapito Parenzo, giuro, non decapito, questo è promesso. Che c'è allora, Nel momento in cui tu attacchi questa coppia che ha fatto questo gesto simbolico e addirittura ti appelli al funzionario del Ministero degli Interni, cioè una cosa agghiacciante, cioè addirittura tu ti vai ad appellare al prefetto. No, dice che siccome non c'è nella legge, questa roba qui è un atto simbolico, una buffonata, una carnevalata. È una carnevalata, ho detto un'altra cosa, non mi sono appellato, ha deciso il prefetto di piantare due righe in cui ha scritto. Beh, però a te l'immagine di questi due tizi col figlio, con la carrozzella, fa schifo, dai, di la verità. Ma non è vero, sì, ti fa schifo. Fa schifo perché l'immagine del senatore del PD con la carrozzina col bambino insieme al suo compagno è un'immagine che ti fa orrore. Dillo chiaramente. Io dico che ho figlie come te e so che senza la mamma queste figlie non esistono, punto e basta. Ma non esistono perché? Non esistono. Lo sai te, lo so io, perché così è. Perché un bambino è con sua madre, così è, non c'è niente da fare, lo so io, lo sai te, lo sa chiunque ha figli, il resto è roba da club, da elite, da carriere. Scusa, il presidente della regione Sicilia, che ha detto che vuole un figlio, dice che vuole adottare un figlio da singolo, glielo impediresti? Per la legge italiana non può farlo, io considero. No, da singolo può fare. Da singolo non lo può fare. È una splendida autonomia, una splendida anomalia la legislazione italiana. La conservo, la difendo, considero la legge sull'adozione italiana farraginosa per le coppie eterosessuali. Quello considero, non il problema di Crocetta, che se ne faccia una ragione, insomma. Vabbè, ma se uno vuole avere un figlio, ma ho capito. Ma mica lo compri al supermercato, io posso volere una scatola di pomodori, non posso. Ho capito, ma se così non funziona così, il figlio si fa. Ma in altri paesi che adottano l'amore, così si fa. Scopando, io direi. Però vabbè. Beh, anche scopando, sì, come preferisci. Ciao. Ciao, Mario. Vota Cruciani. Yeah. know what I'm doing now. Che palle la Boldrini, diciamolo francamente, che non possiamo fare neanche. Oh, diciamo, che palle la Boldrini. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. No, no, perché Parenzo, bisogna fare risentire quella frase sulla prefetta, tra l'altro negli ultimi giorni ha detto anche che il presidente della Camera che è preoccupata dall'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, capito? Lei è preoccupata. Quello perché anch'io. Perché sì, ma tu perché? Vabbè, lasciamo perdere. Perché tutti devono avere devono avere accesso alle cariche pubbliche. Ma chi l'ha detto? Giusto. Ma chi l'ha detto? Ma non è vero! Ma no, tutti devono avere accesso alle cariche pubbliche, ma non è vero, non è detto. Non giusto. Sta scritto da nessuna parte, ma giusto cosa? Ma non è vero. Per me è giusto. Ma la prefetta, però vogliono la prefetta, vi prego. Prefetti di tutta Italia, donne, ribellatevi a questa follia. Dovreste dire io voglio essere chiamato prefetto e me ne fotto di quello che dice il presidente della Camera. Appena arrivati all'aeroporto, la signora prefetta ci ha informato che c'era stato uno sbarco al porto di Palermo. Prefetti donne, ribellatevi! Voglio essere chiamato prefetto e me ne fotto di quello che dice il presidente della Camera. Oh, che è successo? È successo che si sono riuniti i leghisti. Ma c'è ancora Adinolfi al Baghdadi? No, no, non c'è. Al Adinolfi, c'è ancora Adinolfi. C'è stato il rito. C'è stato il rito dell'ampolla, Ah, ma non abbiamo detto che è il tuo compleanno oggi? Sì, è il mio compleanno. Sì, scusami, è il mio compleanno. Ma perché i tuoi 58 anni, guarda che. No, veramente sono 10 di meno, 48, grazie. Ah, scusami, ma che cosa farai? 48 sera? E me li porto molto bene. Cosa farai questa sera? Sono una cazzi miei. Di MILF? Beh, quello è possibile, sì. Eh? È possibile, certo, è possibile. No, come festeggerai il tuo genetliaco? Questo è interessante, per il no, che cosa hai detto prima? L'orgia di? MILF, come si chiama? Ah, l'orgia di MILF, sì, l'orgia di MILF. Beh, sì, magari, ma sai, ormai a 48 anni non ce la faccio più, C'è stata invece la festa dei popoli padani sul Monviso, non so se hai visto. No, questo mi interessa molto poco, guarda. In cui Salvini ha parlato di nuovo di bastoni, poi ha parlato di bastoni di gomma piuma. Poi invece Renzi abbaia ma non morde, perché poi dice che rispetterà tutti i vincoli europei. Non so veramente dove li troverà, se metterà una sola mezza tassa in più andiamo a Roma con i bastoni. Ha partecipato con un mezzo rito dell'ampolla che ha fatto Bossi. A proposito di Bossi, ha parlato anche lui su Scozia, Catalogna, Padania Libere. Ah, qui il sottoscritto è a favore dell'indipendenza della Scozia, a favore dell'indipendenza della Catalogna, purtroppo. Dell'indipendenza del Veneto, dell'indipendenza del Nord. Il sottoscritto, che è diventato indipendentista nel tempo. Qualcosa in contrario? Problemi? Bossi. La Scozia, la Catalogna e la Padania! Libera! È ritornato Bossi, Parenzo, è ritornato Bossi. Ho parlato già con i leader dell'indipendentismo scozzese. E c'è un leader che si chiama Renzo adesso, che è in Scozia. Ma come? Renzo in Scozia? Sei pazzo? Scusa, non capisco. The Renz. Ma come Renzo in Scozia? L'hai mandato in Scozia? Stai zitto che ti veniamo a prendere. Ma sono rovinati? Con i bastoni, ma non di gomma, con te, bastoni quelli col nodo di legno duro, padano. Ti randelliamo a te tutta quella radio lì. Ti randelliamo domani, giovedì notte ti veniamo a randellare con i bastoni, perché The Renz diventerà il presidente della Scozia Libera. C'è un whisky buonissimo. Ma è vero che hai mandato Renzo Bossi? È vero che ha mandato Renzo in Scozia in questi giorni? E intanto gli ho mandato te a fare il culo come prima cosa. E poi Renzo è andato lì a fare tutta la consultazione, sta guidando lui tutte le operazioni, ecco. Fa dire dai che risultato ci sarà. È per questo che sì. I sondaggi sono disastrosi. Siamo arrivati lì, abbiamo mandato a fare il culo la regina, ci sono arrabbiati tutti. Sì, ho capito, ma, è un, quella... ma i sondaggi sono un disastro. Ecco perché abbiamo scoperto, c'è Renzo Bossi in Scozia. Sì, è lì a governare il fenomeno, stanno organizzando i seggi dappertutto. Ma come? Con le ronde padane lì in Scozia, col kilt, si è messo il kilt verde ed è lì col sbrindolo di fuori, e col duro padano lì, e non capisce un cazzo di inglese, ma non importa perché tanto... Appunto, come fa a organizzare? Ma no, abbiamo, la prima cosa che abbiamo fatto, siamo arrivati lì, abbiamo, fatto, abbiamo mandato a fare in culo la regina. Non c'è niente la regina. Vabbè, ragazzi, se la Scozia perderà, i scozzesi perderanno il referendum, voi sapete a chi dare la colpa, cari scozzesi. Voi non sapete, ma c'è qualcuno che sta agendo nell'ombra contro di voi. Sentiamo i titoli del TG3. Poi, a proposito di donne, c'è una roba che riguarda Rocco Siffredi che è incredibile. Aspettate un attimo, fermi là con i titoli del TG3, giusto per dare l'idea di come sta girando la giornata. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Nuova strage davanti alla Libia, 3 naufragi in 5 giorni, quasi 800 le vittime, uno degli affondamenti forse provocato dagli scafisti. Riapertura delle scuole, Renzi a Palermo, entreranno quasi 150.000 precari, assumerli è un obbligo, qualche contestazione, sms antibulli, 9 milioni di ragazzi sui banchi tra riforme e vecchi problemi, ministri in giro degli istituti, la Giannini cambieremo l'esame di maturità, accordo tra PD e Forza Italia sui nomi di Violante e Bruno per l'elezione dei giudici costituzionali, ma elezione ancora incerta per il quorum molto alto. Dati OCSE, quest'anno Italia ancora in recessione, unica tra i paesi del G7, meno 0,4%, squinzi ce l'aspettavamo. Vertice a Parigi per decidere le strategie contro l'ISIS, via libera da aiuti militari all'Iraq, Hollande minaccia globale, l'Italia invieremo armi e munizioni. Il comune di Bologna registra i matrimoni gay contratti all'estero, ma è scontro con il prefetto che si oppone. Il sindaco vado avanti lo stesso. Rocco Siffredi e la pubblicità della patatina. Ah, le patatine di una volta, indimenticabili, preparate con cura, tagliate spesse, croccanti e con quel bel gusto genuino. Così puoi assaporarle una a una e il sapore più deciso. Non ne fanno più così. Eldorada di Amica Chips, indimenticabile. Oh, spot gratis per l'Amica Chips, ma non ce ne frega niente, perché qualcuno, leggo una lettera su Repubblica, un osservatorio interuniversitario di studi di genere, tu dimmi te se possono esistere cose di questo tipo, una professoressa, una docente di non so che cosa, invoca l'intervento, non so di chi, del presidente della RAI, perché questa pubblicità è andata anche sulla RAI, quella pubblicità è un insulto sessista. Può essere accettabile un simile insulto che vuole sempre identificare la donna con il suo organo sessuale? Qui volgarmente definito, perché secondo lei la definizione volgare sarebbe la patata, qui non ascoltano la zanzara evidentemente, o altre trasmissioni. Su Rai 1 la presidente Tarantola non ha niente da eccepire, ma presidente Tarantola manco avrà vista questa pubblicità. E la presidente della Camera Boldrini che dovrebbe intervenire su... Vi prego, fate sì che la Boldrini intervenga sulla pubblicità di Rocco Siffredi che parla della patata. Io prego, prego solo che accada. Io invoco questa cosa. Presidente Boldrini, intervenga anche su Rocco Siffredi e la pubblicità della patata. La prego, intervenga. Poi questa tizia che si chiama Brezzi, desolata, scoraggiata ma non vinta, propongo, oltre al ritiro immediato della pubblicità, un boicottaggio del prodotto. Ma brrr, che paura, sicuramente l'azienda che produce le patatine là, Amica Chips, come diavolo si chiamano, si metterà una paura pazzesca di fronte a questa minaccia. Maria da Napoli, buonasera Maria. Pronto? Dica, pronto, sì. Pronto? Sì, alla radio bisogna parlare però quando uno interviene. C'è questa usanza, usanza. Scusami Giuseppe, è compleanno tuo, sono emozionata. No, ma non c'è compleanno mio, non esiste, è un giorno qualunque, vai, dimmi. Ma ecco, non è vero, non è vero? Sì, è vero, è vero, è vero. Ah, è vero, io vabbè, che... Maria, parla però, ti prego, parla, non farti trattare male, parla, ti prego. Sì, no, non è che mi devi trattare male, volevo dire che approfitto, sono un po' emozionato, scusa. Vabbè, senti Maria, no, aspetta, aspetta un attimo che ti do due sali, ti do due sali. Schifo. Sì, lasciatevelo dire. Più grossa del giorno, Parenzo l'ha sparata a Gérard Depardieu, che ha detto: bevo 14 bottiglie di vino al giorno, ma non sono un alcolista. Ti giuro, 14 bottiglie di vino al giorno. Beh, Depardieu è un evasore fiscale, dai. Ma che evasore fiscale? Uno che legittimamente, per pagare meno tasse, se n'è andato in Russia. Sì, legittimamente, appunto. Legittimamente se n'è andato in Russia. Ma che brutta persona, un'ottima, da questo punto di vista, un'ottima persona, perché va dove il fisco lo fa pagare di meno, contro la follia delle tasse in Francia e in Italia, tra l'altro. Per cui da questo punto molto fortunata, che ha fatto un bel lavoro, molto ricca, e quindi paghi le tasse e non rompa i coglioni. Ma che vuol dire? Ma che vuol dire uno che si ribella, che si ribella alla pressione fiscale, sì, e beh, ottiene da Putin il passaporto russo per pagare meno tasse. Ha fatto benissimo, è ricco. E allora? E allora qual è il problema? Ti dà fastidio la ricchezza? Ti dà fastidio la ricchezza? E allora? Anzi, ma no, uno paga le tasse e se lo può fare, evita di pagare il più tasse possibile. Sì, certo. Paghi assolutamente nel suo paese, che gli ha dato fortuna, e ma non che gli ha dato fortuna? Coglioni. Ma va, cioè, la solita cosa sinistroide, maledetta, maledetta sinistroide delle tasse, che bisogna pagarle. Se uno trova la possibilità di andare... Io ti ho detto un'altra cosa, ho detto che lui ha avuto, giustamente, come si è meritato, grande fortuna nel suo paese, che lo ha reso ricco, bello, no, grasso, e famoso. Paghi le tasse nel suo paese e non rompa i coglioni. Va bene. Oh, Borghezio lancia in gaelico e con tanto di saluto romano, diciamo, in gaelico, l'appello per la Scozia indipendente. Esorto il popolo scozzese, che è un popolo di libertà, a votare in massa per il sì. Vota sì, vota per la libertà, Scozia libera. Tag na, tag gu, on sirsa, alba sirsa. Ha sbroccato completamente in gaelico. Aspetta, che ti devo dire una cosa, cretino, della di Roma. Che c'è, Bossi? Roma, che, sta che c'è, Bossi? C'è stato un problema, perché ho mandato Renzo in Scozia. Lo so, però, ma me l'ha già detto, Bossi. Però è andato prima, siccome non sapeva bene la geografia, ha avuto un problema. È andato a Cape Town, perché pensava fosse lì la Scozia. Ma come a Cape Town? È andato un attimo a Cape Town. È andato lì, ha detto, ecco, la libertà della Scozia. A Cape Town l'ha guardato con un senso di... E adesso finalmente è arrivato oggi, però. E oggi è arrivato a Edimburgo, nel nord della Corea, è arrivato lì a Edimburgo e ha detto che ha avuto dei problemi con l'Atlante geografico. Vabbè, Boss, ho capito. Ho capito che problema c'è a stringere la mano a Verdini. Allora, cari ascoltatori, ma voi la mano a Verdini la stringereste? Sì, io tranquillamente, non ho problemi. Non capisco perché l'onorevole Taverna si deve schifare se ha stretto la mano a Verdini. Addirittura si scusa con i suoi elettori dicendo: ho stretto la mano, mi fa schifo, però mi vergogno con voi. Cos'è che ha scritto una cosa del genere? Vabbè, andiamo a Piacenza, Giuseppe. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Meno male che c'è questa svolta rock della zanzara, perché non ce ne poteva più, oramai siamo un paese in completo degrado, l'unico del G7 col PIL negativo, però cioè, giustamente stiamo dietro alle cazzate peggiori al mondo, tipo sta cosa delle cazzate femministe, la prefetta che, ma è una cosa fuori di testa. Poi ci sono gli animalisti che dicono: ah no, perché praticamente gli animali devono stare meglio delle persone. Cioè, io no, forse è la cosa più razzista che ci sia, vabbè, comunque. E poi vediamo che a Napoli, quando stanno tre in motorino, uno sfonda un posto di blocco, succede quello che succede, perché quando sfondi un posto di blocco e può succedere tutto. Non è che è stato sfondato un posto di blocco, non esageriamo adesso. Comunque no, c'è stato, pare, un'indicazione di fermarsi, e quindi non hanno rispettato. Esatto, lui avrà violato un altro dei carabinieri. Questo ragionamento per arrivare a dove, Giuseppe? Non ho capito bene. No, per dire che per passare al degrado di questo paese ci sono solo due uomini che si possono salvare. Uno è Presidente della Repubblica Vittorio Sgarbi, assolutamente sotto tutta la linea. Credo che sarà mai eletto Presidente della Repubblica, Giuseppe. Mi dispiace, purtroppo, però mi dispiace. Il secondo è Presidente del Consiglio con poteri plenari Riccardo da Roma. Io sono del Riccardo da Roma. Parenzo, questo è per te. A proposito, proprio Parenzo, che dov'è Parenzo? Fammi capire. Dimmelo tu. Non lo so, sono a Roma adesso. Domani sarò in Scozia. Domani sarà in Scozia, no, perché ieri al mare, oggi là, oggi a Roma, l'altro giorno a Napoli col prosecchino in Freccia Rossa in prima classe, ma io sono stato a Rione Traiano, sì, in prosecchino, vai là, vai, fai le tue 2-3 orette, poi torni, comodo, cioè io se devo andare a lavorare, a fare una trasmissione radiofonica, è normale che devo stare là, perché poi dopo non si sente, e giustamente Cruciani ti insulta, povero io Cristo. Faccio che una trasmissione che è itinerante. Vabbè, Maria da Genova, ragione Giuseppe, Maria da Genova. Salve amici. Dimmi. È un piacere parlarti direttamente. Per me dipende, vai. No, sarà un piacere anche per te, te lo assicuro. Allora, io volevo sapere dalla signora Boldrini come devo chiamare il mio amico Andrea, perché Andrea è un uomo, lo devo chiamare Andreo, e poi uno dei 7 re di Roma si chiamava Numa Pompilio, bisogna cambiare i libri di storia. Leonida era l'eroe delle Termopili, era un uomo, come lo chiamiamo, Leonido, e naturalmente Geremia, Mattia, Isaia, Luca, Caligola, l'imperatore Nerva. Ecco, allora, siamo stanchi di queste boldrinate, lo dico con grande calma e spero anche con grande eleganza. Io sono molto orgogliosa, lo sono sempre stata, di essere donna. In certi momenti io sono costretta a vergognarmene. Ecco, volevo solo dire questo. Grazie Maria, lei è perfetta, l'abbraccio fortissimo. Mauro, Reggio Emilia, Mauro. Ciao. Buonasera, purtroppo mi ha un po' rubato l'argomento la signora prima, quindi sarò breve. Io sono una guardia giurata, sì. E rivendicavo il diritto di essere chiamato guardio giurato, insomma almeno per una parità. Dovrebbe fare una richiesta ufficiale al Presidente della Camera, Mauro. Sì, non ho i canali giusti, cioè, però pensavo il problema è che un uomo essere chiamato guardia giurata potrebbe essere una grave offesa. Perché non fa una richiesta ufficiale, una protesta per farsi chiamare guardio giurato? Potrebbe essere, ma poi si dice guardio giurato o guardio giurata? Sono un po' ignorante. La O va messa sulla prima o sulla seconda? Esatto. Capito? Esatto. Questo è un problema. Ciao. È una riflessione questo. Il lunedì come al solito Vittorio Sgarbi. Vittorio, come stai? Eccolo. Come va? Si è licenziato lui. Tornando a Urbino a fare l'assessore. Sei andato a Urbino a fare l'assessore, però oggi ti sei dimesso dal Ministero. Sì, mi sono dimesso perché non ne posso più della burocrazia. Come ti raccontavo l'altra volta, io per costrizione. Ma che stai in viva voce, Vittorio? Che stai? La viva voce. Vabbè, dimmi. Per costrizione, in parte per scelta, andai in aspettativa circa 30 anni fa. La prima ragione era compilare il catalogo della presenza di Rovigo, che è uscito regolarmente. In quella vicenda il tempo di pubblicazione e di indagine fu un po' più lungo e io chiesi una protrazione di queste aspettative senza segni. Un cretino di ordine nuovo, Italo Tassinari, mi denunciò per assenteismo. C'è stata una condanna su quello. Condanna insensata, perché lui provò a ritirare la querela, la denuncia, perché non sapeva che era senza segni. Perché adesso ti sei dimesso? Scusami. Adesso mi sono dimesso perché una volta costretto a non fare il funzionario perché ero parlamentare, e poi dopo parlamentare alto commissario a Piazza Armerina, che era il compito più rappresentativo di quella regione, sì, per la cultura, sono diventato prima sindaco, poi assessore, e tutto questo impone un'aspettativa senza segni. Quando finalmente abbiamo fatto l'elezione Urbino e poi mi hanno indicato l'assessore, la nomina è arrivata 4 giorni dopo la fine dell'incarico precedente. Su questo incredibilmente non ho aperto l'inchiesta, perché io dovevo tornare al lavoro prendendo lo stipendio che non prendevo, e invece non sono andato in attesa della nomina. Per questi 4 giorni implacabilmente hanno deciso di licenziarmi, di ipotizzare licenziarmi. Allora io mi sono incassato con una bella, ho mandato le dimissioni dicendo: ma ti pare che uno che sta in servizio disponibile, dando sì, la riforma che ha fatto Franceschini gliel'ho impostata io, sempre a disposizione di tutti, su qualunque vicenda, su mille questioni, non ti dicono neanche se vuoi riprendere servizio, sì, e pensano che a questo punto io per 30 anni non ho preso stipendio, adesso mi daranno la pensione, come ti dicevo l'altra come volta. Adesso piglierai la pensione, adesso, da adesso in poi comincerai a pesare sullo Stato. Ovviamente, io non ho preso niente, sono sempre stato disponibile, ho fatto le funzioni che ero delegato a fare da parlamentare, non è che puoi fare il sottosegretario e fare il funzionario, ispettore o direttore, imbecilli. Se sono sottosegretario non posso dipendere da me stesso. Sì. Quindi ero costretto a stare in aspettativa. Per 4 giorni nel passaggio da Valdessero d'Aupa a Urbino hanno deciso di dire che dovevo tornare in servizio a pagamento, mentre io continuavo a non essere pagato. Di fronte a questa contestazione stamattina il tuo amico Cicconi, ho detto: sai che faccio? Devo aspettare che le mie ragioni siano riconosciute. Li mando a fare in culo. Io ho fatto la lettera a Franceschini dicendo: siete delle zucche vuote, ladri, incapaci e funzionari che rubano lo stipendio senza fare un cazzo, mentre io non ho preso una lira da 30 anni, ma l'ho pure condannato una volta, mi vogliono cacciare e vaffanculo. Cioè, scusami un attimo, Vittorio, ma al di là di questo, non è un parlamentare, non può fare il professore universitario. No, ma questo d'accordo. Quindi allora io sono stato in aspettativa non per mia volontà, ma perché ero costretto. Però il punto è un altro. Adesso diciamola chiaramente questa cosa qua. Diciamolo, adesso tu prenderai una pensione, mentre se fossi rimasto funzionario non l'avresti pesa. Come funzionario potevo andare avanti 3-4 anni senza prendere stipendio, adesso mi dovranno dare la pensione. Io potevo andare in pensione 20 anni fa, perché c'era allora, sai, c'erano le minime, poi non c'erano le leggi di adesso, sì, certo, che ti mandano. Quindi potevo andare in pensione con 20 anni, oggi ne ho 40, e prendere lo stipendio dal 1992. Non ho preso una lira da allora. A questo punto comunque non li ho presi, quindi mi devono in ogni caso ringraziare. Prenderò la pensione, non posso rifiutare la pensione, me la devono dare perché io ero in servizio, non è che sia stato assente, ero destinato ad altre funzioni. Ma che ci farai? Segretario, parlamentare, alto commissario, assessore, quindi non è che non ho fatto un cazzo. Imbecilli che hanno rubato lo stipendio, quelli che oggi tale guerriero, che si mettono contro di me dicendo: ah, ma per 4 giorni non è andato a lavorare. La guerriero non ha mai fatto un cazzo in vita sua, seduta su quella sedia, si vergogni. Ma chi è questo? Sono qua? È una funzionaria che ha detto oggi a Cicconi: ma Garbi doveva andare perché per 4 giorni tra il mandato di assessore a Basilea. Sì, ho capito. Cioè, capito, questi funzionari, questi burocrati per 4 giorni volevano il tuo licenziamento. Tu li hai fregati, li hai fottuti. E mi sono rimesso con una bella lettera a Franceschini, ma tra l'altro avrei dovuto prendere servizio con lo stipendio. Sarei dovuto avere 5-6 giorni di stipendio, quando sono 30 anni che non lo prendo. Vabbè, ma questi sono dei burocrati pazzeschi, dai, insomma. Come no, bisogna... ma te l'ho detto, perché l'altra volta mi chiamate il tuo posto. Il mio posto non esiste, nel senso che è un posto eventuale. Se andavo lì, non è che avevo delle cose da fare. Aspettavo 14 giorni di diventare assessore. Quindi non è che io rubo il posto a qualcuno, perché purtroppo i concorsi, non essendoci da anni, mancano ben più che un posto. Non è che possono mettere lì uno qualunque preso da una portineria, da custode, devono fare un concorso per titoli e non Sì, ho capito. Sono manifestazioni indegne. Sei ancora a casa, Evo? Archiviata l'archivio, la dimissione di Sgarbi Parenzo dal Ministero dei Beni Culturali, No, io sono felice che lui prenda la pensione, guarda. Perché? Perché se lo meritano. Perché se lo meritano, perché così si rendono conto delle storture del sistema. Lui anzi dovrebbe ogni mese, quando la riceve, mandare un fax con la pensione a questa signora, come si chiama, questa funzionaria di cui neanche so il nome. Guerriero. Mandarglielo. La signora Guerriero ogni mese gli fa un fax, dunque, con la pensione che ha preso. Ma poi che ce farai con questi soldi, Vito? No, volevo dire non farò niente, perché tanto saranno comunque pochi soldi, ma volevo dire che la stessa cosa identica per Scalfaro, che ha fatto il magistrato per 2 anni e poi è stato sempre in funzioni politiche, per Amato. Però non è che è il mio caso, ma il mio caso evidentemente qualcuno mi andrà a rompere il cazzo, perché io non ho fatto niente di più che avere funzioni incompatibili con la mia funzione di ispettore. A questo punto era chiaro. Scusa, però Vittorio, tu non sei lo sgarbi di una volta, adesso al di là di questo, sulla questione dei bronzi di Riace, lo sgarbi di una volta non avrebbe mollato, Cioè, no, ma non ho mollato, abbiamo quasi vinto. Hai mollato, dai. No, no, è stata una polemica bellissima. Ho detto che se loro ritenevano che simbolo fosse l'albero della vita, rinunciavo a chiedere. Io ero da Coldiretti che finanzia, ho detto che è una cosa immonda spendere 8 milioni di euro per fare l'albero della vita, 7 milioni di euro per fare l'Expo Gate. Con quei soldi si spendi 20 musei. Allora, o stabiliscono che i bronzi sono il simbolo della democrazia e li chiedono in ginocchio e sono orgogliosi di averli, ma se devono fare una fontanella del cazzo con 8 milioni, vabbè. Allora è quello che volevo dire. Quindi aspetto che il casino monti quando avremo, come io spero, la commissione che dice che si possono spostare. Cioè, ma alla fine questi qua, in che modo bisogna fotterli questi qua che si oppongono al trasferimento dei bronzi in Calabria? Dalla commissione che deve rispondere non a un quesito politico ma a uno tecnico, si possono trasportare e diranno di sì, perché Zanardi, che è l'unico tecnico, l'unico restauratore che ha fatto di là, non mi potete dire che non si possono muovere. Senti, a proposito invece della situazione politica, Forza Italia è diventata una specie di Vietnam con una delle cosiddette badanti di Berlusconi, la badante per eccellenza di Berlusconi, Maria Rosaria Rossi, che addirittura fa un'intervista in cui dice no, le primarie non si fanno, se Fitto vuole le vado a fare altrove, polemiche conseguenti. Ma ti pare possibile che una senatrice, seppur molto vicina a Berlusconi, si esprima così su uno dei leader del partito? No, ma non è una senatrice, è una cameriera, una badante, come va in senso letterale, cioè fa diventare simpatico Fitto, che ha rapporti con gli elettori e li ha misurati con i voti. Le primarie non sono un'invenzione di ragazzi capricciosi, sono l'idea che ci sia qualcuno che ha un rapporto reale con l'elettorato, che provi la Rossi a fare le primarie, che provi Verdini a fare le primarie. Allora ha ragione Fitto, che pone la politica come rappresentanza, e questa invece è una che ho visto sempre con Berlusconi, oggi assunta al rango di governatrice dei fondi che non ci sono, che ha sempre fatto solo la sua cameriera, solo la sua centralinista, solo la sua assistente, pagata con i soldi, quindi soldi di tutti. Allora io dico, la vera corruzione di Berlusconi non è Rubi o quattro puttanate che si paga con i suoi soldi, ma è avere 3-4 parlamentari al suo servizio che lavorano solo per lui, che gli fanno da cameriere, che gli fanno da assistenti, come era un tempo, ti ricordi la povera Barbilla, come si chiamava la... la Marinella, che era pagata da lui ha una Marinella nuova pagata da sé, pagata dallo Stato, quella è la corruzione, di quello deve pagare. E poi, siccome è bestardo e ridente, la mette a capo di tutti, tanto siccome li considera tutti dei coglioni, la mette a capo di tutti, e questa è la cosa tragica. E quando poi lui ha un altro funzionario che pagava lui, questo Totti, che diventa europarlamentare, il suo funzionario è, come dire, cameriere anche in questo caso, diventa pagato dal Però quello, scusa, quello almeno è passato dalle elezioni, che c'entra, quello era, lavorava per Berlusconi, no, però anche lei è passato dalle elezioni, sono elezioni bizzarre, no, quello all'Europea si è fatto eleggere, Totti con l'Europea ha preso i voti, scusa, questo bisogna... no, ma anche lei è stata eletta seppure in modo anomalo, però che poi uno venga eletto per funzioni, aspetta che ti sentiamo poco, che ti sentiamo poco, che uno venga eletto per funzioni solo privatistiche, e quella è la cosa veramente grave. Cioè tu fai, cioè Parenzo viene eletto e lo paga il Parlamento. Ma scusa, ma Forza Italia esiste ancora oppure è una specie di... No, ma non è mai... Dai, sono fazioni tra di loro in lotta in maniera vergognosa. Guarda, io ti posso dare la mia prospettiva, che è questa: Forza Italia scomparirà. Se Fitto ha coraggio, rompe prima lui, come io mi sono rimesso oggi per dire non posso accettare di essere piegato dagli imbecilli, fa un accordo con altre aree dividendo, come dire, lui ha un potere nel sud, può tentare di fare un accordo con Passera, che non ha un grande consenso, però può ereditare quello di Berlusconi nel nord, e fare un'area di centro, per cui un triumvirato di 3 persone che prendono voti al centro, nel nord, io la vedo così. Però se rimane lì, finisce che... Certo, pure, che pure la Pascale che dice che Renzi è un grande leader, che ha la cattiveria che non aveva Berlusconi. Che lei preferisca, è vero che Renzi interpreta perfettamente le idee di Berlusconi, però lo interpreta dall'altra parte. Berlusconi fa fatica a dirgli no, poi la Pascale. Comunque la Pascale perlomeno non è più, non è più, è stata consigliere provinciale, si è dimessa con una certa, cioè, non è pagata da noi, dice. Non è pagata da noi. Ma la Rosaria Rossi, che fa la stessa funzione, è pagata da noi. Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru, eh. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime... Dark na, dark bu, on sirsa, alba sirsa. Everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. The rain, they hear the jazz go down. Tipi da Zanzara. Mario da Napoli. Pronto, buonasera, dottor Cruciani. Vai. Senta, se posso rubarle cortesemente giusto 30 secondi, innanzitutto per dirle sempre che lei è un mito, io la amo, lei è il migliore del mondo, anche Parenzo è un grandissimo. Poi in 30 secondi, ieri ero a fianco a Parenzo, volevo dirlo a Matrix, purtroppo il popolo del Rione Raiano non mi conosceva, non mi ha fatto parlare. Quando parliamo dell'arretratezza culturale di Napoli e dell'illegalità dell'arretratezza culturale dei napoletani, ricordiamo che le ragazze di 14-15 anni sono anni che a Milano si vendono a industriali, imprenditori, e a Napoli no, perché a Napoli le ragazze di 14-15 anni hanno ancora dei valori. A Roma e a Milano le ragazze di 14-15 anni sono tutte puttane. No, perché a Napoli i genitori li controllano ancora e le ragazze a Napoli e nel sud hanno ancora dei valori. Vabbè, questa sbroccata. E non avete mai parlato del fatto che a Roma e a Milano le ragazze di 14 e 15 anni fanno quasi tutte le puttane con gente di 60 anni. Grazie, grazie, lei è un mito, l'amo. Arrivederla. Tipi da Zanzara. Allora, io voglio farvi ascoltare ancora qualcosa invece di padre Giglio Maria Giglioli. Padre Giglio Maria Giglioli. Questo è un prete, eh? È un prete tuttora in attività, tuttora in attività. Ascolta pure nella sua parrocchia, poi vi diremo dove, i suoi i fedeli, addirittura ha aperto una specie di forum, eccetera. Hanno inventato mille farmaci per impedire l'esperienza dell'amore. Quanto denaro! Hanno inventato mille menzogne diaboliche per uccidere con l'aborto. Ma noi sappiamo che con ciò che esce dall'aborto si fanno anche cosmetici? Allora, l'uomo! Quanto va? Quanto la bottiglietta di cosmetico? E quanto costa? Satana, giovani, uccide! Dio è vita! È difficile, mi dite. Torno a dirvi che Satana ha tanti martiri quanti Gesù. Solo che Gesù libera, divinizza dalla gioia della vita, ti fa sentire indispensabile e ti fa guardare in faccia la morte con gioia, perché la morte non distrugge, Ma poi tu la sapevi questa cosa dei cosmetici? Non l'ho capito, la sai questa cosa? Di... No, che vuol dire? Non, che, non lo so. Che con quello che esce dall'aborto, dice questo padre, si fanno i cosmetici. Ma non è vero, credo. È falso. Ma dove predica questo uomo? Beh, questo non uomo? Ti preoccupare, ve lo dirò. Per adesso no, lo teniamo coperto. Per adesso lo teniamo coperto. Lo teniamo coperto. Non so il Papa cosa, Francesco, diciamo, no? Roberto, provincia di Novara. Buonasera. Dimmi Roberto. Tornando al discorso del napoletano, io e mia figlia a 14 anni alle 2:30 di notte non la faccio andare in giro, però questa era una parentesi. Io volevo dire, rassicurare tutti i vari tassisti che portano spesso il signor Parenzo, di stare tranquilli, perché tanto è talmente interdetto che mai prenderà la patente, perché uno che non capisce, come la nostra presidentessa della Camera, che la gente ha votato per il finanziamento pubblico, non può fare niente, è proprio deve andare avanti a fare quello che fa, giullare, andare avanti a fare la sua parte e via. Almeno riesce a mantenere la famiglia. Lei di che cosa sia? Lei di cosa si occupa esattamente? Ma guardi, di certo non devo fare il coglione per portare a casa i soldi. Lei ho un lavoro onesto. Vado a lavorare, sto tornando adesso, da mattina alla sera, ma non devo fare giurare, io capisco di, cosa di vuol cosa dire aver votato per un qualcosa. Negoziante, guardi, negoziante. Per l'esattezza, negoziante dove? A Milano? Ma certamente non prende i soldi dallo Stato, questo sta contestando la Boldrini, che insiste sul finanziamento pubblico, capito? Neanch'io, poveretto tu, neppure io prendo i soldi del finanziamento pubblico. Ma chi l'ha detto che li prende? No, ma d'accordo, ma dovrebbe che un giornalista sveglio e attento, capire che la gente ha votato per non dare quello i soldi. Quello che penso io, quello che dico io lo dico, e sveglio o non sveglio, questo è il suo giudizio, e francamente vado a letto tranquillo lo stesso, anche se lei ha un giudizio negativo, anzi vado a letto ancora più tranquillo dopo questa telefonata, perché lei mi sta rassicurando sul fatto che il finanziamento pubblico, sono ancora più convinto che sia necessario. Fondamentale. No, io la sto rassicurando solo su una cosa, che lei sta facendo benissimo il suo lavoro tenendo tutti i comunisti di sinistra estremisti, solo quello lei sta facendo. Non ci sono più i comunisti, poveretto tu. Alla zanzara tutte le persone che fanno comodo a lei tenere, capisce? Lei è lì per quello. Questo non c'entra nulla. Ida da Pescara, buonasera. Ho capito cosa ha detto quest'ultima cosa, mi sembra un'idiozia totale. Ida Pescara. Buonasera. Niente, volevo fare un appello alla Boldrini, che non abbiamo bisogno delle sue difese. Cioè molte, io sono felice di cucinare per mia figlia la sera, io ho un'attività in proprio, sono single, cioè, però sono felice di cucinare, mi adoro gli uomini come Rocco Siffredi, che amano le donne, lui è un uomo che ama le donne, noi abbiamo paura degli uomini che odiano le donne, e con commenti così sciocchi si porta l'odio per le donne. Beh, adesso non esageriamo, l'odio per le donne è semplicemente una stupidaggine. Cioè, l'altro giorno ha detto che le prefette, che i prefetti donne dovrebbero essere chiamati prefetto. Sì, ma quando si sente sempre anche quella lì prima, che ce l'ha con la pubblicità di Rocco Siffredi, che fa ridere, è una cosa simpatica, poi uno si rompe le basi. Ma qual è il problema di utilizzare il termine patata, patatina? Non capisco quale offesa c'è nei confronti della donna utilizzare questo termine, o fare una pubblicità in cui c'è un doppio senso sulla patata. Il senso dell'ironia non c'è nessun problema. Ma no, può darsi pure che non sia una pubblicità straordinaria, ma chi se ne frega? Ma qual è l'offesa? Dov'è l'offesa? È la follia del politicamente corretto, la follia che una donna venga identificata con quello, ma chi la identifica? Ma sono malati quelli che fanno questi accostamenti, sono malati loro, non sono malati quelli che fanno la pubblicità di questo tipo. Ma poi temo che chi sente sempre questi commenti dica basta, cioè non è quello. L'emancipazione vuol dire che è compito dei politici, e i politici che abbiamo sono colpa degli italiani, cioè sono noi li abbiamo messi lì, dunque lo specchio della, no? Poi dopo il sistema è un po' distorto. D'accordo. Vabbè, Ida, però la devo lasciare, ciao. Grande ritorno alla della Zanzara, con noi Alessandro Melucci. Buonasera. Buonasera Cruciani, eccoci. Ciao Alessandro, come stai? Ciao, bene, te come stai? Bene, bene, non c'è male. Allora, innanzitutto voglio sapere cosa ne pensi di questa cosa di Bologna. C'è uno scontro furibondo tra il prefetto e il sindaco, perché il sindaco vuole registrare i matrimoni all'estero delle coppie gay, mentre il prefetto dice non sono nell'ordinamento italiano. Chi ha ragione secondo te? Ma dipende dal punto di vista. Quello non c'è dubbio. Il sindaco sostiene i suoi valori e naturalmente il sindaco può scrivere tutto quello che vuole. Quello che scrive il sindaco non ha naturalmente nessun valore per la legge italiana, quindi quella del sindaco è una testimonianza che ha sulla quale il prefetto fa bene a opporsi. Il prefetto fa il suo lavoro di rappresentante del governo in un territorio, di commissario di governo, e ricorda al sindaco quali sono le leggi dello Stato alle quali lui stesso è sottoposto. Quindi, comunque, Parenzo, la cosa incredibile in questo caso, David, è che in Italia non c'è mai la certezza di nulla. Cioè, se il sindaco vuole anche solo per motivi, come dire, simbolici, registrare. Se il sindaco vuole solo per motivi simbolici registrare questa roba qui, poi in Italia c'è sempre qualcuno, c'è un TAR, c'è un Consiglio di Stato, stavolta è il prefetto, che dovrebbero essere aboliti i prefetti, peraltro. E il prefetto che alza il dito e dice no, c'è la legge, ma che al prefetto cosa dia? Ma prendono un lussuoso stipendio, cioè se ma non che fanno neanche frega? Questo non si capisce che cosa no serve. Ma questo è vero, ma il prefetto fa il suo lavoro, no, ma d'accordo, ma tu ti rendi conto che il prefetto di Bologna è uno che nessuno in realtà conosce e che diventa importante, diventa noto solamente perché a un certo punto dice no sindaco, tu questa cosa qua non la puoi fare. Domani volesse dare, supponiamo, la cittadinanza onoraria all'orsa Danica, cosa che sarebbe lodevolissima, l'ipotesi alla quale io mi associerei per lo scandalo di questa cosa. Naturalmente il prefetto, commissario di governo di Torino, dovrebbe ricordare che non si può dare la cittadinanza italiana a un orso, quindi ognuno, come dire, fa il suo mestiere, ripeto. Sì, vabbè, d'accordo, tu sarai da una parte o dall'altra, no? Che pensi, che siano una buffonata questi matrimoni registrati in Italia o no? Ma io penso che ognuno è libero di fare quello che vuole, io sono un libertario assoluto, dopodiché credo che finché viviamo, e non è detto che vivremo per molto, in una società, come dire, che ha delle regole e ha delle leggi, è inevitabile che chi le deve far rispettare le debba rispettare. Poi secondo me il sindaco di Bologna fa benissimo fare tutto quello che vuole, però non pretenda però che il sindaco, che è rappresentante di governo, plauda, questo mi sembra un'ovvietà, perché sennò il commissario di governo dovrebbe essere licenziato in tronco. Parenzo, tu sai che Melucci ha scritto. Scusami, voglio dire a Melucci, no, perché il commissario di governo in questo caso proprio una stanza di zitto, non aveva nessun bisogno di metterci il cappello sopra. Io ho conosciuto prefetti bravi, il prefetto di Milano. Ma sì, poteva stare zitto e non rompere i coglioni. Dai, su, questa è la realtà. È bravissimo, sta svolgendo un ruolo fondamentale su Expo, ad esempio, e quindi gli va dato merito. Non è che si occupa di questo. Il prefetto di Milano è una persona molto seria che io ho conosciuto. Ma se ne sbatte, dai, su. Avreste ragione, se, come dire, gli atti, come dire, delle amministrazioni locali, soprattutto quando attengono a questioni di questa portata, non dovessero essere, come dire, controfirmate da chi ha questa competenza, che è il prefetto, come molte deliberazioni. Ma non c'è nessuna firma del prefetto. Quando un prefetto fa un esposto, per esempio, per dire questo consiglio comunale deve essere sciolto per ragioni di mafia, fa un arbitrio, non lo so, fa quello che deve fare. No, d'accordo, cioè, può non farlo. In questo caso è semplicemente una roba per rompere i coglioni, diciamo la verità. Il prefetto avrebbe fatto un'omissione dati d'ufficio qualora non l'avesse fatto, dopodiché farà quello che vuole. Poi per me il sindaco può anche mettersi le piume in testa e andare con le drag queen, però fa benissimo. A proposito, ha visto quel concerto che ci sarà al Parlamento Europeo con Conchita Wurst, la donna barbuta, l'uomo barbuto in realtà? Anche lì ognuno è libero di esibirsi dove vuole. Però andrà a cantare al Parlamento Europeo. Bene, buon per lei. Io, come dire, ho sempre pensato che donna barbuta è sempre piaciuta, però voglio dire, io proverei una certa reazione francamente di antiestetica, perché le donne barbute oppure i travestiti vestiti con la barba da donna non mi piacciono esteticamente, ma se a qualcuno piacciono fa benissimo andarli a vedere. No, beh, ma un travestito, vabbè, qual è il problema? Tu dici è uno scandalo che canti al Parlamento Europeo? No, ma perché ormai ben altri sono gli scandali. In un mondo in cui si tagliano le teste come se fossero stuzzicadenti, figuriamoci che sono gli scandali. Sono cazzate, semplicemente. Chiamare scandali mi sembra una parola eccessiva. Ma siete una bella coppia comica, Perché preferisco gli orsi? Perché non vanno in tre orsi su un motorino, io non li ho mai visti, senza assicurazione e senza patente. No, io sto dicendo che gli orsi fanno gli orsi, cioè non mi aspetto che facciano, che so io, i geometri. No, fanno gli orsi. mai andato giù in metropolitana. Tu entri in metropolitana e ti accorgi che non si può amare il prossimo come se stessi. Anzi, si può disprezzare. Perché? Cioè, prova. Io vi invito a provare. Mentre a me gli animali che stanno in Trentino non mi danno nessun fastidio. Quindi non capisco perché si devono uccidere dopo che siamo andati a prenderli. Tu lo sai, Davide, che ovviamente tutti sono preoccupati per la sorte di queste due italiane che sono state rapite, no? Pare che non siano in mano all'ISIS o al califfato, ma potrebbero finirci. Ma uno che diavolo va a fare in Siria a fare il volontario? Cioè, spiegamelo, che cosa ci va a fare secondo te? Cioè, che cosa... Ma sei un pazzo fanatico, cosa vuoi che faccia? No, a fare il volontario in Siria, cioè, ma di che stiamo parlando? Cioè, no? Ah, tu dici quelli che vanno volontari nelle organizzazioni non governative? In genere, in posti dove non si dovrebbe andare, no? Cioè... Beh, vabbè, ho capito, però se non ci fossero nemmeno questi, ma evidentemente... Ma cosa va? Meluzzi, che ne pensi, cioè, di questa cosa? L'unica cosa che mi preoccupa è chi dovrà rischiare la pelle per portare a casa queste due sconsiderate. Non ci sono altri aggettivi per definirle. E guardate, io ho una figlia un po' più grande di così, perché ha 25 anni, ma se a 20 anni fosse venuta da me per dire che voleva andare a salvare la Siria nel mezzo di una guerra civile, avrei detto che per vederla morta avrei preferito ammazzarla io, perché l'avrei fatto in modo più indolore. È chiaro che tutto questo è un'aberrazione, non solo perché espone queste due sconsiderate a dei rischi inenarrabili, ma perché espone altri a dover rischiare la loro pelle, come accadde con la Sgrena e il povero Calipari, per andare a cercare a tirare fuori da quell'inferno. Oh, diciamo la verità, queste due non sono due eroine. Ma sono due ragazzine di 20 anni, senza la testa sul collo, che evidentemente, non essendo stata messa neanche dai loro genitori, che avrebbero dovuto cercare perlomeno di trattenerle da questa sconsideratezza, mentre almeno a giudicare da certe loro dichiarazioni sembrano applaudire a questa follia, che non sarebbe nulla se non fosse una follia delle quali loro non rispondono fino in fondo, perché qualcuno dovrà andare là, pagare qualche milione di euro per cercare di portare a casa, come ha fatto sistematicamente l'Italia in tutte queste circostanze, attirandosi il furore di Stati Uniti, Inghilterra e Francia, che essendo paesi leggermente più seri, gli scatti non li pagano, mentre gli italiani li pagano sistematicamente. Infatti gli ostaggi italiani vengono considerati galline delle uova d'oro. Una follia. E per il momento non gli tagliano il collo, perché ritengono che con la testa sul collo, per la poca che abbiano, siano ancora, come dire, una buona rendita possibile. Ciao Alessandro, a presto, ciao. Ciao a voi. Ciao. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Fra poco ci collegheremo, caro Parenzo, con un tuo amico, che so che hai incontrato a Camogli, dove sei stato il fine settimana, ovviamente strapagato in alberghi di lusso, a Camogli. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Con Umberto Eco ci colleghiamo. No, con un altro che hai incontrato. Fra poco ci colleghiamo. Un altro che ho incontrato? Sì, uno che hai incontrato lì. Furio, il grandissimo Furio Colombo. No, Luigi da Fermo. Pronto? Sì, dimmi. Buonasera Cruciani, grazie per l'opportunità, buonasera a tutti gli ascoltatori. Vai Luigi, forza! Allora, in merito a prefetto o prefetta, io un episodio di qualche anno fa, sono membro di un club di cui non faccio il nome, dove in un evento abbiamo invitato tutte le autorità, tra cui c'era anche il prefetto Donna. Allora, nel suo intervento diceva questo: in qualità di prefetto porto i saluti delle istituzioni e come persona, eccetera eccetera. Quindi, ma che ci frega a noi, scusi? Che ci frega, perché qua i nostri statisti si perdono in queste quisquiglie, e mentre ci sarebbero... Vabbè, lei ci sta raccontando un episodio in cui un prefetto donna si faceva chiamare prefetto, certo, ma nessuno viene in mente, a nessuna donna prefetto viene in mente di essere chiamata prefetta. Cioè, io ne devo trovare una che abbia mai detto io voglio essere chiamata prefetto. Non esiste una cosa del genere. È solo nella testa del presidente della Camera, che ci deve fare due palle così. Vabbè, con questa storia, capito? Appunto, per questo volevo puntualizzare. Allora, c'è bisogno di puntualizzare, lei è stato chiarissimo. Andiamo in provincia di Gorizia da Marco. Marco. Ciao a tutti, vai, dimmi. Mi sono rotto il cazzo di sto paese di merda pieno di diritti. Che cazzo è il diritto di un uomo ad avere figli? Che cazzo è il diritto ad avere figli? No, ma non c'è il diritto, nessuno ha detto che c'è il diritto ad avere figli. No, io non ho detto il diritto, ho detto semplicemente perché avrà il diritto. No, diritto, se vuole avere i figli, trova il sistema ovviamente non un sistema aberrante, secondo con una donna e fa un figlio. Ma se non può andare con una donna, se non vuole andare con una donna, e allora si incula in tutti i sensi e non ha figli. Cioè, saranno cose più gravi nella vita. Un uomo e una donna scopano e fanno figli. Questo è. Se non possono, non fanno figli. Però esiste anche l'adozione, Marco. Esiste anche l'adozione, come lei sa, no? È bravissimo. Io questa cosa esagerata che ti dico l'ho imparata proprio da un percorso di adozione in cui ti insegnano che non c'è il diritto ad avere un figlio adottato, ma c'è il diritto del figlio ad avere i genitori migliori che esistono sulla piazza. Per cui non esiste il diritto al figlio. Uno che va a secondare una donna. Ma nessuno dice che c'è diritto al figlio. Ho capito, quello è andato a fare. Allora, il compagno di quel deputato lì è andato negli Stati Uniti col suo sperma, ha pagato una donna per fare la fecondazione surrogata, come diavolo si chiama. Questa è rimasta incinta, ha avuto il figlio, è stata pagata, e questi sono tornati in Italia col figlio. È un'aberrazione secondo te? È un'aberrazione, come? Per avere un figlio, per avere un cane puoi farlo, ma per avere un figlio no. Ma sono tutti contenti, sono tutti contenti, quella perché ha preso i soldi, loro perché hanno i figli. Tu che è contento il figlio, ma il figlio, vedremo se è contento. Ci sono tanti figli che nascono da coppie eterosessuali che sono scontenti, su dai. Certo, ma no, sono tanti figli da coppie eterosessuali che vengono picchiati, eccetera, sono d'accordo con te. E allora, forza. Per me possono trombare quello che vogliono, sposarsi e tutto, ma non esiste il diritto ad avere figli. C'è il diritto naturale che un uomo e una donna scopano e hanno figli, purtroppo ogni tanto non dovrebbero, perché poi per tirarli su male è meglio non averli, ma non esiste al mondo che uno vada all'altra parte del mondo per mettere un seme, neanche se la scopa, è anche sfigato, neanche se la scopa, va a mettere il seme in una che se la tiene in pancia per poi sfornarlo dopo e diventa il papà, col cazzo, no. Ma è vero, Parenzo, che hai incontrato recentemente Salvo Mandarà? Ah, certo, mi ha bloccato, mi ha fatto anche un'intervista. Come ti ha bloccato? Che ti ha costretto? Che ha fatto? Ma molto gentile, è stato carino. Detto, scusa, posso farti un'intervista? Dico, molto volentieri. Ci siamo seduti ai tavolini di un bar, appuntato. Ma non vi siete insultati? Durante l'intervista, sì, ma sono stato educato. Lui mi ha chiesto un'intervista e io, per la sua televisione, per il suo broadcast. Salvo 5.0.tv. Gliel'ho detto, c'era un Salvo 5.0.tv. C'era un gruppo di questi ragazzotti 5 Stelle che sì. Filmavano a loro volta, noi che venivamo ripresi, io ho provato a filmare anch'io a mia volta l'intervista, sai che loro fanno questa cosa che ti filmano, mettiti intervista. Il confronto tra Salvo Mandarà, che saluto, ciao Salvo. Ciao Giuseppe, ciao David, come state? David Parenzo, molto bene. Come vanno le tue denunce, Salvo? Con chi hai denunciato? Chi hai denunciato di recente, oltre a Napolitano, Draghi e non so chi altro, chi hai denunciato? Allora, intanto ti do un aggiornamento. Dimmi l'aggiornamento. La denuncia di cui tu sei a conoscenza è quella fatta il 13 aprile del 2012 contro Napolitano, Monti, Berlusconi, tutti i presidenti della Repubblica, del Consiglio, ministri e parlamentari dal 92 al 2012. Tutti denunciati. Immagino che i magistrati non stavano aspettando altro che ricevere le tue denunce e poi soprattutto agire. Infatti il pubblico ministero Elisabetta Cenicola, ma chi è? Di Roma, sì. È un pubblico ministero. Ha archiviato a tempo di dire, poi dicono che credo. La giustizia è lenta. E te credo. In un mese, 12 giorni hanno archiviato la mia denuncia. Ma. E io la settimana scorsa ho mandato un'altra denuncia dove dico alla PM Cenicola, magistrato. Io la prego di riaprire immediatamente le indagini. Immagino che sarà stupido. Sulle persone a cui aggiungo nel frattempo Matteo Renzi, Enrico Letta, Mario Draghi, eccetera, eccetera. Sì. Perché hanno confessato, quindi sono rei confessi. Ma confessato cosa, Salvo? Scusami. Monti e Draghi continuano a dire pubblicamente che l'Italia deve cedere sovranità e addirittura Monti ha la Ma quale sarebbe il reato? Il reato quale sarebbe, scusa, Salvo? Il reato sono tradimento della Costituzione, tradimento del popolo italiano, riduzione in schiavitù del popolo italiano. Scusa, però giustamente è uno dei pochi casi, Parenzo, in cui la giustizia funziona in maniera celere, perché dopo un mese, sai quante denunce ci fanno a noi? C'è un professore matto, adesso ho ricevuto l'altro giorno una denuncia di uno che è uno, è un professore, anche tu sei stato denunciato da uno che No, sei uguale a me in questo caso, sei stato denunciato da un professore che faceva l'elogio dell'olocausto, una cosa del genere, no? uno di Padova, a me, te, napoletano, chiunque, giustamente il pubblico ministero, quando ha visto l'incartamento, ha detto vabbè, archiviamo, perché no, di che stiamo parlando? Però aspetta dai, su. Non mischiamo la Nutella con escrementi di mucca. Non ti sto dicendo questo adesso, ecco. Tu hai denunciato tutti questi qua, i capi di governo dal 92, sì. Secondo te un pubblico ministero serio che gli arriva davanti un fascicolo in cui c'è la denuncia per tutti i primi ministri dal 92 in poi, cosa dovrebbe fare? Parenzo, rispondi tu, ti prego. Non è secondo me Giuseppe, e secondo la legge italiana. Ma che legge italiana? Uno dovrebbe archiviare e mandarti un buon dottore. No, scusami, ti sbagli perché infatti ti faccio capire quanto sbagli. Intanto ti dico che io ho detto a questa magistrato Cenicola, guardi che se lei non indaga le persone che io le sto dicendo di indagare, che succede? Che fai? Deve necessariamente indagare me per calunnia e per diffamazione, perché io dico che Monti, Draghi, Renzi sono dei criminali, e lo dico in diretta anche radiofonica adesso. Cioè, per te Renzi è un criminale? Secondo te Renzi è un criminale? Assolutamente sì. Ma questi non ti denunciano, perché sennò ti fanno pubblicizzare se ti denunciano, non hai capito ancora? No, se mi denunciano io ridimostro che ho ragione, capisci? Ma dai, quindi ho detto al PM, se lei non indaga me per diffamazione, io farò un'altra denuncia alla procura competente, che è quella di Perugia, per omissione d'atti d'ufficio. Vabbè, ma siamo alla follia. Un attimo, solo Salvo, torno subito da te con il grandissimo Salvo Mandarà, militante 5 Stelle, poi non so che è successo, adesso è ancora militante 5 Stelle, si è messo in proprio, non è più al seguito di Grillo, fa il giornalista e denuncia tutti. Quelli che minchiate che dite. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Senti cosa dice il nostro amico Pellegrin, sempre Radio Padania, soprannominata da Parenzo, ribattezzata da Parenzo Radio Odio o Radio Ku Klux Klan. Io non sono d'accordo. Senza dubbi né ripensamenti. Poi naturalmente se Cucciani mi vuol male mi può far fuori, ti dico anche il proiettile col quale puoi spararmi, caro Ertrucido, basta che tu mi dica che viene pagato il bambino scemo, se vengo a sapere che il bambino scemo viene pagato io mi sparo. Fai vedere le tue braccia. Allora, puoi cominciare a spararti, però. Allora io gli manderò, agevoliamo subito questo atto e gli faxerò la busta paga. Vai vedere. Dacci un fax, Pellegrin, così ti mandiamo la busta paga di Parenzo. Mandagli un versamento che viene fatto da Radio 24 a Parenzo, così no, te spari. Non dire un versamento. Un versamento, un versamento messo. No, un versamento, la prova. Un calderolo, se vuoi. No, la prova dei versamenti, che hai capito? Ma che sei rincoglionito stasera? Cioè. Poi che vuole da me, telefonaci, che dice telefonaci? Non sono del tutto ignorante, ma non sono nemmeno del tutto scemo. Io aspetto sempre Cruciani che venga a dirci, può anche intervenire, può anche telefonare allo 02 66 20 3529. Cruciani, visto che hai il buon triestino che mi registra tutti i giorni, quindi mi senti sicuramente quando dico queste cose, puoi prendere il telefono e puoi comunicare, ma comunicalo anche ai tuoi ascoltatori prima di tutto, che sono più numerosi ovviamente, abbiamo degli ascolti eccezionali a Radio Padania, magari danno fastidio a qualcuno, ma quello è un'altra cosa. Ma abbiamo con noi Salvo Mandarà, Salvo 5.0.tv, seguitelo, è un nostro amico un po' mattoide, ma è un bravo ragazzo alla fine. Salvo Mandarà, che oltre alle sue denunce eccetera ci parlerà adesso invece della sua idea dell'ISI o del califfato. Ma secondo te sono stati creati dagli americani? Senti Parenzo, senti sta roba. Salvo. Giuseppe, io non voglio andare tanto in dettaglio, ti dico solo che per un bel po' di anni abbiamo creduto che il colpo di Stato dell'11 settembre 1973, tu stavi pensando al 2001, hai detto fregato, del 73. No, l'11 settembre del 73 no, però che è successo? Come che è successo? No, lo so. C'è stato un golpe in Cile, è stato Vabbè, ma che c'entra adesso? Che c'entra? Gli autori sono sempre gli stessi, è sempre la CIA, gli Stati Uniti d'America. Sempre. Vabbè, ma quello è... No, non è che c'è bisogno che ce lo dici tu. Cioè, ma che vuoi dire? Che vuoi dire con questo qua? Che l'ISI è stata creata dagli americani? Ma io non lo so da chi è stata creata, però voglio dire, non mi bevo le bufale, tant'è vero che quando Gad Lerner pubblicò un tweet dove disse onore alla memoria dei giornalisti americani uccisi, io mi sono unito nel ricordo con onore ai giornalisti uccisi, però ho aggiunto premio Oscar come miglior attore ex aequo a Obama e al boia. Che quel video è una bufala, voglio dire, è quasi a livello di quella dell'11 settembre. Cioè, perché l'11 settembre è una bufala, tu dici è una bufala, il video degli i video degli sgozzamenti è una bufala l'11 settembre, è tutta una bufala. Senti, Giuseppe, ascolta un attimo. Tu, con tutte le conoscenze che hai, puoi andare a parlare con, per esempio, con un pilota dell'Alitalia o di qualunque altra compagnia e ti fai dire: un aereo di quel tipo lì che si è abbattuto, secondo la versione ufficiale, sulle Torri Gemelle. Volare a 900 km orari all'altezza del grado zero? Vabbè, insomma, è una se ti risponde di sì, a quel punto ti pago una cena con champagne e caviale. Ma pure Obama è un criminale, secondo te? Ma più che altro, vedi, criminale è una parola ormai anche buttata, sono dei servi, poverini. Anche Renzi, non è corretto chiamarlo se criminale, è un cameriere di criminali ben più potenti. E chi sarebbero i criminali? I criminali sono, per esempio, morti riuniti nel centro Bilderberg. Ancora con sto Bilderberg. Certo, so che ha inseguito la mia amica Monica Maggioni, gli è andata a rompere i coglioni pure là. Io sono andato al festival a Camogli quasi esclusivamente per parlare con la Maggioni. Ma che te frega, ma quella è andata con il suo capo Gubitosi, perché entrambi mentono in modo spudorato. Perché quando ho chiesto alla Maggioni: mi scusi, ma lei cosa è andata a fare? Anzi, cosa ci fa una giornalista in una riunione del Club Bilderberg? Mi ha risposto: la giornalista. Ho detto no, perché come tu, Giuseppe, mi puoi insegnare, essendo giornalista. Ma quella è andata per curiosità. Che curiosità? Nell'elenco ufficiale, se tu vai sul sito del Bilderberg, il Club Bilderberg, Monica Maggioni, Rai News Director, non è che ci ha messo turista o casalinga di Voghera. Ma il Bilderberg è dietro l'11 settembre pure? Ma io non lo so, ma tu mi fai le domande come se io sapessi tutto. E che ne so, io sembra che sei tu. Ma non perché tu non potresti sapere. Sono molto più di te perché io cerco di aprire gli occhi. Se tu li aprissi con la tua intelligenza, con le tue conoscenze, potresti sapere molto più di me. Vabbè. Allora, ti posso dire? Dimmi. Ecco, scrivi l'epitaffio. Questo è abbastanza definitivo. Si aggirava per questi vicoli bellissimi di Camogli, elegantissimo. Questo ragazzo sudatissimo, con questo zaino ricolmo di telecamere, con un cavalletto, eccetera, puntava la sua telecamera contro queste persone elegantissime che uscivano, no, dai convegni. Allora andava lì col microfono a rompere i coglioni. Beh, giustamente, però. Ma questi qui neanche lo cagavano, no? Cioè, ma chi è questo? Ce lo guardavano anche, mi dispiace, con totale disprezzo spesso, no? Ma come, giustamente? A un certo punto ha trovato il sottoscritto, il quale gli ho detto: sì, va bene, facciamo l'intervista. E inizia a delirare, come sta facendo qui, sull'11 settembre. Cioè, ma non hai letto le teorie? Ma sei tu che deliri perché ignori, David, ignori, caro mio. Sei una persona squisita, ma sei ignorante. La cosa da verificare è come nell'intervista, mai questo signore giri da solo. L'unica cosa da verificare è questa qui, te lo dico io. L'unica, David, è fidati di me. No, fidati, ho anche visto. Ma no, scusami, nell'intervista tu hai definito pacottiglia quelle cose sull'11 settembre che ci sono in rete. Però certo, non hai letto neanche una. Allora, invece la pacottiglia è quella a cui credi tu, quella è la pacottiglia. Ciao, Salvo, a presto, allora, ti devo salutare. Vedi, scappate. Ma che sbuglio, ma che scappiamo? Dimmi la prossima volta, dai, Salvo, la prossima volta. Ciao. Please allow me to introduce myself. Allora, delirio vaginale. Gruppo di mie fan, Parenzo, su Twitter, scusami. Sono tutti uomini, perdona, no, sono donne. Mi hanno fatto un regalo, però domandati perché, un regalo per il mio compleanno con un biglietto, no? 15 settembre 2014. Ma che regali hai ricevuto? Ormai ti manca poco per essere, che c'è scritto qua, catalogato come vecchio. Purtroppo per voi uomini non esiste qualche termine per dire MILF o Cougar. Però resti una voce sexy. Vabbè, poi altre cose. Speriamo che tu festeggerai. Vabbè, lasciamo perdere. Poi c'era un disegnino. Un disegnino in cui c'era una donna con le gambe aperte. E altri due disegnini con una donna che fa una fellazio, fa un poppino a un uomo, capito? Questi Beh, sono. Chissà come mai ti hanno omaggiato di questo, diciamo. Tra poco grande collegamento, Luigi da Pescara. Salve, buonasera. Dimmi, Luigi. Sì, dimmi. Allora, io voglio intervenire proprio a tal proposito, che oggi è il 20° anno della morte e della scomparsa di Juana Pozzi. Io sono del 1972. E allora? Io e la mia generazione, di non froci, perché non ho un amico ambiguo, perché siamo cresciuti proprio con i film di Juana Pozzi, di Ricarati, Karin Schubert. E allora? Allora, vedi, Parenzo che è nato dopo, nel 72, No, 76. Sei del 77. Vabbè, allora che vuol dire? Non ho capito. Sei che è Ricchione. Io poi un'altra cosa. Ma non è Ricchione, non è che se uno non è cresciuto, io pure sono cresciuto come te con i film di Karin Schubert, di Juana Pozzi, sì, di Lili Carati, però non è che penso che quelli che non li hanno visti sono tutti Ricchioni, Luigi. No, infatti non è, però dato sì che ho mangiato molto. Aspetta che c'è una telefonata che dobbiamo fare, squilla il telefono forse, aspetta un attimo, sì. Aspetta che riusciamo a beccarlo, finalmente riusciamo a beccarlo, un attimo solo, aspetta. Vediamo se risponde. Chi parla? Presidente Ferrero? Sono Cruciani, Radio 24, salve. Forza Samp. Beh, scusi, un saluto al direttore generale. Che radio è? Radio 24, è gruppo Sole 24 Ore, radio di Confindustria. Ma sta in studio pure Mialovic? Ma chi, scusi? Mialovic. No, non c'è in studio, non c'è. Allora non me ne frega niente. Va, come non gliene frega con niente. Mialovic ci diciamo sempre un sacco di belle cose. Perché ci amiamo molto, forza Samp. No, ma scusi, le dicevo che siamo dalla radio di Confindustria, però, Ferrero. Ma io sono poveraccio che lavora. Io penso solo una cosa, a me da Confindustria non mi frega niente. Ma che c'entra? Io sono uno che ha fatto guerra. Ma che guerra? Mi auguro che non ci sia più, ma se ci sia, so cazzi. Si può dire cazzi alla radio? Vabbè, sì, qua si può dire, ma scusi un attimo, mi sta seguendo? Ma io so premio Oscar, ho fatto 100 film, faccio il cinema da 40 anni e carcio come una ficca cionna. Vanno in campo 11 gladiatori, forza Samp. Sì, vabbè, ma scusi, ci dedica un minuto alla radio di Confindustria, sì, Radio 24. Non c'è problema. Non me ne frega niente, ma vabbè. Ma scusi, presidente, abbiamo pazienza. Cioè, vabbè, parliamo della sua Samp. Va, abbiamo visto che sponsorizza i film, con i suoi film sulle maglie. E allora, se vede che la prossima volta ci metto una figa. Si può dire figa alla radio? Vabbè, oddio, insomma, dipende poi. Vabbè, ma molti magari, che ne so. So che lei è entrato in polemica anche con Preziosi, il presidente del Genoa. A me De Preziosi non mi frega niente. E poi il mondo è bello perché ha variato. Vabbè, ma io non ho capito una cosa. Commenti un po' questa vittoria della Sampdoria sul Torino. Sta andando bene in campionato, presidente? Dopo la Sampdoria c'è nulla. Vabbè, ma lei... Forza Samp. Vabbè. Saluto lei, il direttore generale. Ma quale direttore generale? Cioè... E tutti i vostri... Ma è una radio, Radio 24. Ma non è la radio, Radio 24. Bravo. Ma avete intervistato Mialovic? No, guardi, non... Che giornale siete? No, è radio, Radio 24. A me da vostra radio non mi frega niente. Vabbè, non mi frega niente. Presidente, arrivederci, Parenzo, non si può parlare con Ferrero, è una cosa pazzesca. Ciao, presidente, arrivederci, grazie. Ma chi parla? No, è Radio 24. Ah, è Radio 24. Non mi frega niente. Vabbè, grazie. Maria, provincia di Palermo. Ecco, buonasera Cruciani e buon compleanno. Dimmi. Volevo dire due o tre cose. La prima, che sono d'accordo con lei quando dice che l'uomo e l'animale sono diversi, perché allora anche l'animale è uguale alla pianta, quindi lì il discorso è complesso, comunque siamo diversi. Ma io quando l'ho detta sta cosa? Quando l'altro giorno quando ci parlava degli animali, sì. Dell'orsa, sì. Vabbè, dunque... E dunque, un'altra cosa che volevo dire a proposito di quando Feltri dice che i poveri danno tristezza. Senz'altro, i poveri danno tristezza, però i ricchi danno ancora più tristezza e fanno anche schifo. La terza cosa che voglio dire dei gay è che dovrebbero essere un pochino più anticonvenzionali e non sposarsi proprio, cioè non dovrebbe sposarsi nessuno, non è che loro dovrebbero avere il diritto di sposarsi, non si dovrebbe sposare nessuno, ecco, tutto. Beh, questo anche secondo me, Maria, non si dovrebbe sposare nessuno, però ancora il matrimonio, come dire, è uno dei pilastri su cui si regge la società, c'è poco da fare, è così. Io pure mi vengono i brividi, sono refrattario, cioè sono refrattario. Appena sento qualcuno che si sposa, la prima cosa che mi viene di dirgli è: ma chi te l'ha fatto fare di sposarti? Ma ce l'hai fatto anche tu? E beh, ho sbagliato, che c'entra? Non ho sbagliato, cioè sono contento di averlo fatto, però adesso non lo rifarei, che c'entra? Adesso non lo rifarei. Beh, ho capito, ma che vuol dire? Cioè, non è un istituto che non mi piace più. Tu invece ti risposeresti? Tu ti risposeresti? Magari anche, perché no? Mamma mia, ma come fai? Ci sentiamo domani, 18:30. Appena arrivati all'aeroporto, la signora prefetta ci ha informato che c'era stato uno sbarco al porto di Palermo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono manifestazioni indegne. Radio 24. La passione si sente.